Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Nella variegata tipologia di viaggiatori che mi capita di incontrare, come già spesse volte ho detto, ma non per vantarmi, semplicemente perché, ahimè, la pratica dà dei talenti, ho imparato a classificarli in delle categorie ben specifiche, sia uomini che donne, o viaggiatori di ogni possibile genere. In questo caso ho ormai l'occhio allenato nell'individuare la rapace in trasferta. La rapace in trasferta non è un termine che vuole essere denigrativo, è una donna che ha una rapacità relazionale, curiosità e divertimento, una donna molto intelligente, una donna che non conosce le convenzioni, non gli interessa, vive appieno la sua vita, la vive in modo intenso. E naturalmente una donna che vive la sua epoca pure, la vive appieno, conosce gli strumenti di relazione e di contatto della sua epoca e quindi si organizza durante la settimana. Ci potrebbero essere anche uomini, non voglio essere tacciato qui improvvisamente di atteggiamenti segregazionisti o discriminatori verso il genere femminile, no, però la donna è più evidente, lo nasconde meno. L'uomo rapace in trasferta lo simula come una trasferta d'affari, un momento di impegno di lavoro, o non vuol far vedere in sé i segni del desiderio che in quel momento è fibrillante. No, la rapace in trasferta che va avanti è chiaramente una giovane donna, simpatica, allegra, divertente, estroversa, che va a conoscere un uomo che ha conosciuto soltanto attraverso i sistemi di relazioni informatici. E naturalmente è una preda appetibile per le mie domande, ma anche per le vostre curiosità. Come nasce questa storia? Cominciamo come nasce, poi vediamo come finisce. Allora, praticamente niente, io durante la festa della donna ero con delle mie amiche e parlavamo del fatto che ci sono pochi uomini interessanti in giro. Ma la sera eravate uscite tutte assieme? Sì, classica serata, eravamo in tre, classica serata tra donne. Ma a vedere lo spogliarello maschile oppure no? Solo a cena? Siamo andati a vedere un comico che fa ridere, insomma. Vabbè, un comico non deve far piangere, se no non è un comico. Giustamente, però fa particolarmente ridere questo, insomma. Vabbè. È del posto. Fra una risata e l'altra, che vi dicevate? Che appunto ci sono pochi uomini interessanti. Allora questa mia amica mi ha detto: ma riscriviti su Tinder, no? E così per gioco, per scherzare, mi sono iscritta io, che sono sempre quella che si espone, diciamo, perché poi dopo rimane, si vede la faccia, quindi magari si vergogna. Perché le altre erano troppo brutte, inguardabili, sei l'unica. No, decente. Molto carine, però si vergognano magari di far vedere che sono su un'app che fondamentalmente serve per cercare Tinder serve solo per quella roba, non è che serve. No, abbiamo capito che la funzione è esclusivamente quella di una notte via. Non lo sapevi, scusa. Ma io sono sempre speranzosa. Non ti lo sai il problema, non ti molla mai Tinder. Adesso per tutta la vita riceverai messaggi: questo signore ti vuol conoscere, una faccia dall'lupato, vedrete. Mi so cancellata già da un pezzo, ne ho provato un'altra più carina. Come si chiama quell'altra? Inner Circle. Vabbè, sempre la stessa cosa. No, è più carina, un po' più, cioè, meno esplicito. Sì, esatto. Allora, nel tuo profilo Tinder cosa avevi messo? Perché bisogna sempre specificare. Beh, cosa c'era. Nulla, perché prende le informazioni da Facebook, quindi c'era semplicemente la mia foto e basta, non c'era scritto niente. Vabbè, tu metti: cerco uomini, cerco donne, voglio sposarmi, tutte queste cose. Certo, ho scelto uomini, ho scelto un range d'età perché insomma. Qual era il range? 32-45. Vabbè, ah, tengo larga. Palatino raffinato, eh sì, che vuoi di più? È diciamo il boccone del prete, è il meglio che c'è. Scusa. Vabbè, io pure appartengo più o meno a quella fascia, no? Sì, sì, va giustamente, mica dico che sbaglio, però hai scelto la fascia più ambita e più preziosa, è chiaro. Esatto. In cui ancora puoi sperare di trovare qualche single, ma proprio con difficoltà, però puoi sperarlo. Sì, infatti, con difficoltà. Che hai trovato? E ho trovato insomma, un ragazzo molto carino con cui io insomma sono passata a conversare, diciamo, a chattare con WhatsApp. Quindi aveva il tuo telefono a questo punto? Eh sì, ma io non è che ho problemi a dare il mio telefono, nel senso che. E quindi niente, così abbiamo chattato per una settimana. In questa settimana mi era sembrato di percepire, insomma, una persona comunque carina, non volgare, rispettosa, perché altrimenti, cioè, ti Ma ti posso fare una domanda preventiva? È una domanda preventiva. Sì. Perché secondo te una persona carina, gentile, simpatica sta su Tinder invece che andarsene in giro? Allora, premesso che io sono una persona carina, rispettosa e comunque mi piacciono queste app, mi scrivo ogni tanto su queste cose qua, e sono anche una persona che va molto in giro e conosco praticamente tantissime persone, quindi non credo che... Quindi un po' è una maniera nuova per conoscersi, insomma. Non è da sfigati, è chiaro, quindi come ci sto io ci posta anche lui, no, giusto, esatto. Giusta la risposta, esatto, prezzo, questo sì. Ti do ragione, cioè, perché ci sto io perché non ci può stare lui, certo, io mica sono sfigata, è chiaro. No, infatti, solo che gli uomini mi pare di capire che la utilizzano più per... Beh certo, per andare a raccogliere le margherite uno non si iscrive a Tinder, no, va a un corso bene, di No, io che c'è, però l'uomo, l'essere umano maschile, almeno quello italiano, è molto più ipocrita rispetto Vabbè, a allora questo ha fatto il carino, e poi come è andata avanti? Ha fatto il carino e quindi insomma mi ha chiesto di incontrarci e io ho deciso insomma di incontrarlo. Beh, normale, scusalo, perché sei conosciuta. Anche perché lo scopo è quello. Cioè, se no mica sai, chattare tutta la vita, sai che noi. Quindi ci siamo visti un paio di volte, in cui la seconda volta diciamo che c'è stato l'incontro un po' più intimo. Più penetrante, va bene, poi... E poi sei nell'ordine naturale delle cose, sennò che perdevi tempo a fare. Sei grande, non è che sei una bambina. E quindi, vabbè, non sei contenta? Sì, sono contenta, se non che questa persona per i due giorni successivi all'incontro è stato sempre, comunque continuava ad essere carino, mi scriveva parlando, dicendomi che aveva appunto un sacco di, cioè che lavorava molto, che era qui da solo, quindi non conosceva nessuno, si era trasferito da poco, che non aveva amici, non usciva mai. Io gli avevo raccontato invece i posti che frequentavo, che ero una persona che comunque invece stava sempre in giro, che conosceva tante persone. Insomma, una cosa carina, non è che è chiusa lì una botta e via, ti ha dato un segno di un proseguo, non dico sentimentale, ma tenero, carino, no? Esatto, che poi è quello che insomma dovrebbe ci poteva essere anche una seconda volta, ecco, diciamo. Esatto. Tu speravi tutta la vita, però almeno una seconda volta. No, adesso no. Beh, Terry un po' innamorata, Terry. No, no, io non ho queste aspettative a lungo termine. Ma un pochino, vabbè, un pochino, ti piaceva. Vabbè, sì, giusto per raccontarmela un po', insomma. Vabbè. E quindi niente, insomma, poi una sera, dopo due giorni, io esco con i miei amici e sabato sera vado a una festa. E me lo trovo praticamente al tavolo di fianco con la moglie? No, con degli amici. Vabbè. Però sono rimasta un po', cioè la verità è stata che praticamente, vabbè, io sono arrivata con un altro mio amico, un amico, non niente di che. Quando l'ho visto, dopo che lui mi aveva raccontato appunto di essere una persona che non aveva conoscenze, che quindi stava sempre a casa, che poverino lavorava, eccetera, eccetera. Quando l'ho visto mi sembrava una faccia conosciuta, mi sono avvicinata e gli ho detto: ma noi ci conosciamo? Cioè, scusami adesso, te l'hai ritrombata una settimana prima e manco l'hai riconosciuto? No, due giorni prima. E manco l'ho riconosciuto, vabbè, proprio è ripresa da quest'uomo. Ma no, perché non l'avevo lì, perché non l'avevo collocato, cioè Vabbè, una persona che si è stata letto due giorni prima nemmeno riconosci la faccia, cioè... Ma no, è tutto così, ma non è che non ho riconosciuto la faccia, io la faccia l'ho riconosciuta, solo che al momento, siccome sapevo che non usciva mai, abitava tre quarti d'ora da dove... Vabbè, mica è una colpa, sarà uscito con dei colleghi, tu stavi con un uomo da sola, potrà pensare lui, dice: vedi questa, mi ha detto di essere un'anima in pena e già c'è un altro uomo, Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenoba@radio24.it. L'ha salutato? L'ho salutato e lui è rimasto tutto freddo un po'. Vabbè, ci credo, è arrabbiato, dice, ma come questa ha fatto l'amore con me 2 giorni fa, adesso già sta con altro, magari è innamorato lui, no? No, vabbè, no. E che ne sai? No. E gli uomini mica manifestano, tant'è è rimasto male, cioè, come 2 giorni fa con me, amore, picci picci, e adesso sta con altro, certo, poverino. Sì, certo, poverino. E quindi dopo io mi sono avvicinata, finita la cena, carina, insomma, sono andata a salutare, insomma, non mi aspettavo di vederti qui, ho spiegato, insomma, che lì per lì non ma tu gli hai detto soltanto un amico, per me è soltanto un amico, gliel'hai detto? No, dopo lui mi ha detto, senti, io sono venuto qui con i miei amici, tu fatti la tua serata, io mi faccio la mia, onesto. Vai con quel ragazzo con cui sei arrivata, e io tu vedi ha rosicato, cioè, vedi, e io gli ho risposto, quale ragazzo? Cioè, quindi penso di aver dato un po' forse impressione. Eh no, ha rosicato lui, era innamorato, ha rosicato, dai. Ma non era innamorato, e quindi, vabbè, non era assolutamente innamorato, perché quella sera, infatti, non mi aveva detto che sarebbe venuto nella città dove io abito, che è Ancona, e quindi non lo so. Ma ci aveva avuto le fatti suoi, magari una cena di lavoro, cioè non ti ha voluto disturbare, anche gentile. Scusa. Certo. No. Scusa, ma di cosa lo accusi? Di aver fatto una cena con degli amici? Fosse no, stato con una donna, ma non mi ha poi praticamente sparlato tutta la sera. Perché è rimasto male, ti ha visto con un altro uomo, era convinto che fra di voi potesse nascere una storia, è rimasto male. Ma non ti posso dire una cosa? Cosa sarebbe aspettato un uomo? Che tu andavi lì, lo salutavi e dice, guarda, questo è soltanto un amico mio, stavo sola, sono uscito con lui, mi piacerebbe rivederti, dagli subito un segnale rassicurante. Poi gliel'ho dato, nel senso che, insomma, però lui era sempre, era molto scontroso, sembrava quasi fosse arrabbiato. Certo, ero offeso. E anzi, addirittura, cos'è adesso? Mi ha detto, vuoi stare tutta la serata con me? Ho detto, no, vabbè, Vabbè, ha fatto, lui è un cretino, ha fatto un po' risentito, non conosce le donne, doveva fare il signore, il grande, un bel sorriso e poi magari con calma vi sareste rivisti e vi chiarivate. Cioè, diciamo che la conoscenza che uno fa attraverso una chat prima, insomma, di incontrare la persona ti dà un po' il 30% di quello che può essere la persona, e io qui non avevo percepito il 70% un idiota. No, idiota, poveraccio, era uno che aveva avuto sto colpo di fortuna, ha trovato una carina che gliel'ha anche data dopo 2 giorni. Non ha saputo tesaurire. Negarsi un piacere. No, ma infatti, lo so, ma non è che abbia tutti i giorni, trovi quelle che te la fanno soffrire, vogliono essere sposate, fidanzate. Ma io non ho è stato fortunato, ha trovato una donna libera, simpatica, generosa e divertente. Se l'è bruciata facendo uno scatto di gelosia, ma che nemmeno un retrogrado degli anni 50 farebbe. Esatto. Poi che è successo? Che dopo una settimana. Si dice, sai come si dice, uno culo che non vide mai camicia. Purtroppo questo è il suo. Com'è? Culo che non vide mai camicia. Purtroppo. Così. Vabbè, fatto sta che poi dopo una settimana questo non si fa mai sentire, io non lo cerco perché comunque, insomma, giustamente, vabbè, si è comprato così, e mi trovo a organizzare un tavolo con, come mi capita spesso, organizzo delle serate, mi seguono in 20, quindi una tavolata di 20 persone a nome mio, in un altro locale che lui sapeva che frequentavo, e questo locale pieno, sui tavoli pieni, di fianco al mio tavolo c'era il tavolo suo, 3 persone. Beh, è una botta di fortuna. No, fortuna. E anche lì non mi rivolge parola. E con chi era lui? Quella volta con chi era? Sempre con degli amici. Però cosa ha fatto? Un po' sfigato, un po' sfigato. Cioè, 2 volte lo vedi, manco, sempre con degli amici. Vabbè. Però il bello è che poi ha cominciato a dare fastidio, chiedere il numero e, insomma, provarci con tutte le mie amiche. Vabbè, quello doveva fare il galletto. Vabbè, ma è patetico. Beh, è un idiota proprio. Sì, purtroppo mi spiace dirlo, ma era un idiota. Non mi era mai capitato così tanto. Vabbè, perché frequenti poco gli uomini. Tipico comportamento idiota. No, io li frequento, la maggior parte sono così, purtroppo è difficile trovare qualcuno interessante. Però visto, vedi che tutto sommato ti è andata bene, perché se la storia fosse continuata ti avrebbe massacrato la vita questo. No, ma infatti sono stata comunque contenta, ma il bello è che poi anche quella sera faceva lo stupido così, io comunque gli mando solo un messaggio per dirgli appunto quanto l'ho trovato cretino. Ha fatto il cretino allora, ha fatto l'arrabbiato dopo, ma pensa tu se fosse stato tuo marito, no, ti avrebbe massacrato, quindi fatto l'imbecille, si è bruciato, fine, qual è il carisma? Che le amiche tue non gliel'avrebbero mai data, era scritto poi in lettere di fuoco nelle porte del cielo, che tu non le avresti mai più ridate, è chiaro dopo questo comportamento, che ci ha guadagnato? Nulla, che è un cretino. No. E poi la volta successiva io mi sono presentata nel locale, c'è andata una mia amica che lo ha incontrato e lui l'ha fermata salutandola, provandoci, chiedendole il numero e dicendo per me è diventata un'ossessione, cos'è, vuole stare sempre con me? Io ho detto ma vabbè, non, stupido, non lo so come hai cercato. Però vedi qual è il problema, io sai come sono innamoratissimo delle nuove tecnologie, delle maniere contemporanee di comunicare, però il fatto è che una persona non basta chattarci una settimana per conoscerla. No, sono d'accordo, capisci? Questo, certo, può andare bene per una serata, ma poi deve scomparire, devi cancellarlo dalla vita. Infatti quello è il punto, cioè visto che io insomma l'ho conosciuto così, una settimana era veramente poco, poi vabbè è andata così, la mia, diciamo, quello che avrei voluto era vedere se casomai magari ci potevano essere altri incontri o almeno che sparisse. Invece me lo sono ritrovato due volte di seguito di fianco al mio tavolo e questa cosa mi ha anche un po' infastidito, però tanto non è che insomma, sì, ma non era chiaro che voleva lui, perché se lui voleva sparire poteva farti un bel sorriso e sparire lo stesso, dire ciao come stai, fine, non far scene, niente, se no sarà disinteressato. E che in realtà lui era interessato probabilmente, ma con degli strumenti patologici e sbagliati, voleva fare di te, che ne so, la sua schiava, che non lo so, no. Qualcosa del genere, voleva, magari pensava di poter esercitare su di te un diritto. No, francamente non ho capito, l'unica spiegazione che mi sono data è che poteva essere un sociopatico. Cioè vabbè, che sono cose che se tu guardi le rubriche nei giornali femminili avrebbero risposto così, o le amiche che guardano il dottor Caramasco e i suoi video ti dicono così. Ma no, era molto più semplice. Ma no, era un povero sfigato che esatto, che gli è andata di culo una volta nella vita, invece che razzolare, capito, le solite signore âgées che poverine cercano un po' di compagnia, aveva trovato una ragazza disponibile, comunque ha potuto avere anche una bella storia. Io non è che sono proprio una ragazzina, però vabbè, avrebbe potuto avere una bella storia con te. Sono no? Appetibile, insomma. E non poteva avere una bella storia. Simpatica, certo, leggera, divertente. Ma difatti. Ma anche una storia d'amore, che male c'è, scusa, che ne sai? E invece sei bruciato, una botta sola sei bruciato tutto. Infatti io cioè, sto cercando di capire se questi metodi, insomma, per incontrare le persone danno a tutti lo stesso risultato. Senti, te lo dico io, allora funzionano se tu trovi un professionista di una botta e via, che sono i migliori. Sì, si arriva quella serata, fine, scomparire. Perché non è possibile incontrare una persona. Allora, a me è capitato di incontrare tramite Facebook una persona che poi ho incontrato, con cui ho avuto una storia, per carità, travagliata, ma è nata comunque un'amicizia che va avanti ormai da 4 anni. Perché non può capitare di incontrare persona. Sì, sono sempre questioni di caso. È chiaro che tu frequenti sporadicamente una persona e i lati nostri più problematici li tiriamo fuori dopo un po', non li tiriamo mai fuori subito. Quindi frequentando una persona, uscendoci un po' di volte, cominci a capire com'è fatta. Una volta sola, poi sai, con l'euforia di essersi certo conosciuti in rete, vedersi finalmente, hai già avuto un livello di intimità. Sì, però raggiunge un livello di intimità verbale in una settimana di chat che ci vuole 2 mesi di uscire, andare al cinema, vero, e a prendersi il caffè. Vero, vabbè. È vero. Vabbè, dai, ma non ti è andata male, scusa. Hai evitato. No, hai evitato uno che non te lo saresti più scrostato di dosso, capito? No, infatti mi sono detta uno così, se lo incontravo una sera, ci parlavo 2 minuti col cavolo che ci uscivo. È bravo, esatto. Perché è un potenziale però stalker, lo capisci? Un potenziale stalker uno così. Mamma mia, però io mi chiedo, ma è importante dove avviene l'incontro con una persona? Non lo so, non ho risposte, tesoro. L'unica cosa da dirti è che bisogna avere un pochino più di cautela in questo tipo di incontri, perché ma io non è che devo c'è un lato scuro che tu non puoi sapere sulla persona. Non cautela, che non lo devi conoscere, però quando anche lo conosci, quando anche ci vai a letto, sai che di lui saprai una parte ancora molto piccola rispetto a quella che sapresti se lo avessi frequentato con un pochino più di assiduità. Ma certamente io non, in quel momento non cercavo questa cosa, cioè avevo voglia di svagarmi e di vivermi il momento senza pensare a quello che poteva succedere dopo, e purtroppo ho avuto la sfiga o fortuna, se vogliamo vedere, di trovarmelo non solo nel posto dove andavo, ma addirittura proprio attaccato, cioè quello evidentemente può essere che non sia stato casuale, comunque. La prima volta forse, la seconda credo un po' meno. Magari tu scrivi su Facebook, stasera vado in quel ristorante e lui ci si precipita, non lo so. No, lo sapeva, gliel'avevo raccontato. Allora ha cominciato a tampinare. Pensa come ti avrebbe tampinato se con lui cominciavi una storia di un mese e poi volevi stare un po' più tranquilla e libera, magari qualche sera uscirtene per conto tuo. Questo te lo saresti trovato sotto casa, con l'accetta in mano. Mamma magari mia. Quindi è andata bene, dai, sei fortunata. Sono contenta. Va bene, in bocca al lupo. ti sei salvata la vita, vedi. Grazie. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Se vogliamo continuare il gioco delle categorie dei viaggiatori, anzi delle viaggiatrici, visto che oggi mi capita di incontrare più spesso donne che uomini, oggi come mai, non lo so, ci sarà un motivo particolare. Sarà per questo particolare treno o questo particolare tragitto che non vi dico mai il tragitto del mio treno, perché è indifferente per voi. Immaginate che io ormai sono collocato in una dimensione parallela, che è fatta di rumore di rotaie, che è fatta di quell'odore un po' stracco di suppellettili di treno che non sempre profumano, ma hanno qualcosa tra la morchia, il grasso umano e il cibo che vi rimane impregnato, con sempre quel retrogusto di gabinetto di treno che rimane dappertutto, per quanto si usino molte volte senza parsimonia deodoranti, quando si fanno quelle veloci pulizie dello scompartimento, quando il treno fa una sosta, uno deve aspettare un attimo, entrano le squadre e puliscono tutto. In 5 minuti vengono puliti 8 vagoni, è chiaro che un po' di odorino rimane in giro. Beh, dicevo, questa volta invece ho, se possibile, l'esatto opposto, la figura antitetica rispetto alla rapace viaggiatrice. È l'appagata meditatrice. La signora qua avanti è una signora che potrà avere la mia età, forse qualcosa di più, avrà sicuramente 60-65 anni probabilmente, è una signora che è contenta, è placida, è felice, non deve cercare nessuno perché l'uomo l'ha trovato. Faccio qualche rapida domanda e capisco, ci credo che è contenta, l'ha trovato, ma che ha più di 10 anni meno di lei. Ah, quindi è una storia clandestina, perché clandestina? Lei è sposata? No, assolutamente. No, clandestina, perché a me questa cosa della differenza di età un po' mi metteva in imbarazzo. Quant'è la differenza fra voi? 50 e 65, per cui insomma è abbastanza. Vabbè, mica tanto, sono 15 anni. Io però la vivo un po' così. Adesso comunque mi sto abituando all'idea che effettivamente è possibile, però diciamo che l'ho sempre vissuta un po' marginalmente. Ma quando uscite assieme lei cosa fa? Finta che è un fratello? No, assolutamente, tutti sanno che siamo amici, quindi non ci sono problemi, cioè voglio dire, noi ci frequentiamo normalmente, quindi non ci sono grossi problemi. Vabbè, mica uno obbligato a dire al mondo che poi in realtà sì, si avanti, insomma, anche perché poi insomma io dove vivo non dico dove, però insomma sono un po' arretrati secondo me culturalmente, quindi vabbè, no, comunque queste cose succedono. Ho anche una mia collega insomma che sta con una persona che è molto molto molto più giovane, quindi... Di quanto? Tanto, sarà quasi 20 anni, no, 15. E quanti anni ha la collega? 35, lui mi pare che ce n'abbia 22, una cosa del genere, 20. Beh, si sentono di più poi, no? In quel... Perché dice in quella fase si capisce meno la differenza. Sì. Ma poi dipende molto dal fatto che una persona sia, diciamo, più o meno matura, ecco, no? La maturità della persona. Sì, una deve essere molto matura, l'altro molto giovanile, perché non si veda. Sì, uno molto giovanile, sì. E lei è giovanile, quindi Stefano qui. Sì, anche gli interessi che ho, insomma, sì. Però ecco, diciamo che il problema secondo me può nascere anche dal punto di vista del desiderio, perché effettivamente una persona che ha 65 anni, che ha già vissuto, no? Non dico che non devo vivere più, però che ha vissuto magari intensamente tutta una serie di tappe, può in qualche modo sentirsi meno motivata di un cinquantenne per quanto riguarda la sessualità, capito? Ah, lei dice c'è questo problema, che lui c'ha più voglia di lei che... Sì, certo, sì. Questo quindi, però può succedere anche, può succedere anche a 40 anni, a 30 anni, sa, il desiderio è abbastanza volubile, no? come caratteristica. Per voi è un problema questo? No. Lo sente più ardente di quanto lei in realtà avrebbe voglia di sopportare? Sì, forse sì. Ma di questo si lamentano anche le mogli trentenni. Mio marito c'ha sempre voglia, che noia, sono stanca. Sì. È un classico delle donne questo, no? cioè il discorso è questo, un sacco di interessi, no? Un sacco di cose da fare, e quindi a volte do più, diciamo, importanza alle cose che faccio, perché mi sembra che il tempo sia poco, che mi sia rimasto, no, non che mi sia rimasto poco tempo, perché la mia nonna è morta a 97 anni, per dire, però insomma voglio dire che il tempo mi sfugga, no? Quindi mi piace molto vivere, ma non vivere per l'innamoramento, vivere proprio per fare delle cose. Ma secondo lei, scusi, quest'uomo perché sta con lei? Lei è molto ricca? No. Quindi non ci sta per interesse, ci sta perché deve ristarci. Sì, perché dice che sono una persona simpatica, che insomma lo diverto e che insomma questo, e che gli piaccio fisicamente, ma in effetti sono stata sempre non brutta. Ma il suo problema è che in realtà lui avrebbe voglia, lei no, questo è l'unico problema, mi sembra poco come problema, no? Dicevo che semplicemente che io forse sono più attratta da tutta una serie di fatti di vita che voglio fare adesso che smetterò di lavorare, pensare all'amore, insomma, però ho questa relazione. Quindi però c'ha questa angoscia, se lui invece pensa all'amore lei non sa cosa rispondere, questo è il fatto. Non è che ho proprio un'angoscia, perché un po' me ne frego, però cioè non posso angosciare. Beh, mica può sempre dire che c'ha il mal di testa, un pochino. Ma no, ma io non dico mai che c'ho il mal di testa, per carità. No, dicevo semplicemente che io sono meno focosa di lui, basta, ma non è che c'ho il mal di testa. Ma era focosa lei 20 anni fa, era più focosa? Sì, molto molto di più, sì. Si beva mezza bottiglia di superalcolico, non lo so. Così mi addormento completamente. E quindi c'è questo problema che lui andrà a cercare un'altra donna se lei continua a essere così. Oh beh, insomma, forse sì. Però è un problema. Non so adesso quali possono essere dei rimedi, se lei vuole essere all'altezza. Ma quando mi creda, è un problema molto diffuso in tutte le generazioni. Non credo che sia. Poi da quanti tempo è che state assieme? È 2 anni. Vabbè, se un uomo per 2 anni non ha avuto nulla da dire, non è che, ormai lo sa com'è. Cioè, sì, ma infatti non è che c'ha tanto da dire. Cioè, quello che passa al convento ormai l'ha capito. Se gli sta bene, vuol dire che gli sta bene, no? Certo, sì. Comunque. Il peso anche delle voci degli altri dietro la schiena. No. Che dicono, quella sta con uno molto più giovane. No, assolutamente no. No, questa cosa non mi tocca un granché, no, era una questione mia più che altro, capito? Ma lei fa i conti, quando io c'ero 80 anni lui ce n'avrà ancora 60, no? No, non li faccio, perché guardi, io non faccio i conti su niente, perché penso sempre che la vita oggi è così, domani non è una sorpresa continua. Cioè non posso fargli un percorso di vita che sia quello, no? Poi le storie cominciano e finiscono, non c'è niente da fare, no? Ma intanto questa va da 2 anni, 2 anni è una buona media, diciamo. Sì, è una buona media, però le storie cominciano e poi finiscono, oppure non finiscono, però possono anche finire, quindi uno certo ci può rimanere male, però non si può mica fare il caraghiri perché è finita una storia. Se ne può sempre trovare un altro a questo punto. No, basta, grazie. Scende. Sì. Si trova un trentenne magari dopo. No, basta. Cioè, io non so perché ho avuto sempre persone molto giovani, comunque. Vabbè, si ricattira i giovani. Può essere, cioè, non lo so, istinto materno, perché io penso. Beh, anche perché se dovesse mirare, diciamo, al bersaglio più alto, che fa, cerca un ottantenne, si trova il problema opposto. Si ritrova il problema opposto, no? È uno che deve spingere, poi allora, che ne io so penso una cosa, cambiargli il pannolone, queste cose. No, io c'ho mica lì ci andiamo a giocare a bocce al centro anziani, cioè no, scappa via. No, però insomma stavo dicendo questa cosa, che secondo me gli uomini cercano appunto le donne più giovani, perché le donne più giovani attirano di più, insomma, quella questione della carne fresca, no? Che poi non mi piace dire carne fresca, comunque insomma, diciamo che sì, dall'idea di bancone del macellaio, sì, è orribile. Comunque piacciono di più delle donne di una certa età. Ma non è assoluto, le donne di una certa età possono avere anche un fascino, secondo me, capito? Che lo chieda lui, gli hai mai chiesto perché stai con me? Sì. E lui che dice? Perché mi piace, mi stai simpatica, mi piace molto stare con te, sto molto bene, sono contento. Cara, guardi, se lei fosse una ricca possidente, l'avrei detto, attenzione, perché vale anche per gli uomini, un uomo molto anziano che sta con una ragazzina, dice, ma perché sta con te, perché sei ricco, perché gli dai sicurezza, così. Ma mi sembra che a questo punto ci stia perché veramente le piace, quindi le piace star con lei, stia contenta, finché dura va bene. Certo, sì, il giorno che lei... dura, perché è chiaro che, guarda, però ci sono delle coppie appunto che, io mi ricordo che tanti anni fa c'era una coppia che aveva 10 anni, all'epoca faceva scalpore, una coppia contadina, poi, insomma, io non so se nell'ambiente contadino questo è, diciamo, visto ancora più... Ma dipende, diciamo... nell'ambiente contadino gli uomini hanno sempre avuto donne molto più giovani, le donne... Esatto, invece... È che nell'ambiente contadino le donne quando avevano 40 anni erano già vecchie perché si massacravano. Di fatica. Questo si era sposato con una donna di 10 anni di più, però non aveva fatto scalpore, devo dire. Ma molte volte si faceva anche per mantenere le proprietà, non c'era mica sempre motivi legati all'amore. Sì, può essere anche questo, sì. Vabbè, la sua comunque mi sembra una scelta abbastanza motivata, insomma, quindi comunque, io starei tranquillo. Secondo me, il fattore età, insomma, piano piano tenderà a scomparire. Certo, ancora fa impressione nella nostra società. Ma le amiche le hanno mai detto cosa fai, perché ti metti con questo, no? No, non, nessuno mi ha detto niente. Beata te, nemmeno quello. No. Le sue coetanee. No, ma io sono molto... non racconto molto delle... Sì, ho capito che è una storia segreta questa, quindi ancora... Sì, la tengo abbastanza... Ma lui è scapolo o ammogliato? No, non ha la moglie. E allora? No, separato, quindi... E quindi che problema c'è? Non ci sono ostacoli, diciamo, se non voi stessi, quindi state contenti. È una cosa normale, non una cosa tanto strana. Guardi, quando uno si abitua è normale qualunque cosa, quindi va benissimo così. È abbastanza normale. In bocca al lupo, magari ogni tanto si sforzi un pochino, anche magari facendo finta, sai. È una storia vecchia come il mondo. Noi donne siamo molto brave. Siete brave, faccia finta ogni tanto, poverina. Siamo attrici e poi oltretutto gratifichiamo pure l'uomo. Lo faccia contento ogni tanto. Facciamo anche un'opera di bene. Sì, si sforzi un pochino, almeno su quello. Siamo deboli noi uomini, ci basta poco, ci accontentiamo di poco. Sì, no, non siete così critici. Vabbè, qualche contentino glielo dia ogni tanto, su, faccia uno sforzo. Sì, gli darò un contentino, però non spero che sia vero. No? Studi magari, così si informa in giro, che ne so, sulle novità. Leggerò qualche libro. Beh, libro. Un po' hard. Basta che guardi su internet, c'è un sacco di cose da guardare, da scoprire di nuovo. Vabbè, bocca al lupo, buon viaggio, grazie. Arrivederci. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Per bilanciare l'eccesso di quota rosa che questa mattina ho distribuito nel mio passeggiare lungo gli scompartimenti del mio treno, vi propongo l'audiolettera di un uomo invece. E devo dire che stanno straripando quelli che sono i confini che avevo dato delle audiolettere, che in generale devono parlare di vagamente esperienze di vita, non sempre necessariamente relazioni. Alla fine sono diventato il confidente di storie d'amore, ma in questo caso dovrei diventare il consulente per un signore che ha un problema che va oltre quello che può essere il campo dell'amore. Buongiorno Nicoletti, sono un uomo sui 40 anni di Modena, sposato da 5. Come la maggior parte degli uomini, anch'io, fin da quando ero bambino, ho una mia fissazione sessuale. Mi eccita tantissimo una donna di età indifferente, con due belle gambe e, molto importante, con le calze velate e i tacchi. Questa mia fissazione, purtroppo, non viene soddisfatta da mia moglie, la quale reputa questa una cosa strana. Non si mette mai le calze e i tacchi durante il rapporto sessuale. Nonostante sappia che mi eccita tantissimo la visione e anche l'odore del piede inguainato dalla calza di nylon, a meno che non sia io a chiederlo. Ma vedo che non lo fa molto volentieri. Mi guarda strano, come se fossi un marziano. Perciò mi limito a chiederlo il meno possibile. Se no, dice, allora non sono io che ti eccito, ma sono le calze e i tacchi. Caro mio, non è che posso darle una diagnosi, non sono un medico. Ma non occorre un grande acume né una grande cultura nei fatti della vita per capire che lei è irrimediabilmente, ma anche serenamente, stia tranquillo, questo non causa danni alla salute, feticista. A lei piacciono le calze, a lei piacciono le scarpe, a lei piace l'odore un po' sfatto del piede non sempre pulito, sono i sintomi della parafilia che fa sì che una persona si innamori di alcuni oggetti, di alcuni feticci appunto. Su questo non c'è niente di male, c'è di peggio, c'è chi va in giro a tagliare le teste alle persone. Le piacciono le donne con calze, scarpe ardite, e le piace una sorta di sinestesia, di insieme di sensazioni fatta dal accarezzare la calza, nel guardare la scarpa e sentire anche l'odore di piede. Che devo dirle, se per questo lei è un problema, vada da un sessuologo e dica: guardi, io ho questa parafilia, sono un feticista, ne voglio guarire. Se ne vuole guarire per avere un rapporto più sereno con sua moglie, che mi sembra di aver capito che non ha nessuna voglia di bardarsi per andare a letto. Di quelle donne che dicono: le scarpe quando vado a letto me le levo, se devo mettermele sto scomoda, sporco le lenzuola, strappo le lenzuola, mi sento stupida. Insomma, uno ha diritto anche di pensare questo. Certo è che se la compiacesse un po' più e ogni tanto evitasse di togliersi le calze quando va a letto, probabilmente lei non starebbe qui a scrivermi e a rovellarsi nel suo dolorosissimo problema. Eppure non mi sembra di chiedere la luna. Non capisce che sono le calze e i tacchi sulle sue gambe. Questa mia fissazione è talmente forte che mi provoca disagio anche nella vita quotidiana. Basta ad esempio andare a far la spesa. Quante donne in giro si vedono con le calze velate e i tacchi, e quando le vedo, oltre a eccitarmi, mi sale anche il nervoso. Forse proprio perché questa mia voglia non è pienamente soddisfatta. Mi eccita molto di più una donna brutta di 60 anni, ma con due belle gambe, le calze e i tacchi, piuttosto che una bellissima donna di 30 e magari nuda. Come posso fare per colmare questa mia fissazione? Mia moglie la amo, andiamo d'accordo. Questo è l'unico punto che non condividiamo proprio, perché lei non concepisce questa mia cosa. Devo continuare a frequentare l'escort? Purtroppo lo sto facendo. Cerco un'amica sui social che mi soddisfi sotto questo aspetto? Non è facile, ci sto già provando. E in quanto alla vita privata, è normale questa mia voglia di voler andare in giro per vedere donne con calze e tacchi. E poi, una volta che le vedo, mi eccito e mi innervosisco perché non posso farci nulla. Ma a causa di questo sono in una condizione di stress allucinante. Grazie per la sua attenzione. Vorrei un suo consiglio e magari qualche consiglio da qualche ascoltatore. Buona giornata. Mio caro, lei già ha bruciato tutte le tappe, cosa devo dirle? Le sta già cercando, probabilmente, in siti per feticisti, la sua anima gemella. Guardi che la può trovare, ma è facile che la trovi a pagamento. Entrerà in una spirale che sicuramente, probabilmente in qualche maniera le darà sensazioni piacevoli, ma probabilmente attenterà al suo portafogli, perché gira che ti gira. Non è che lei dice: voglio una donna, si metta calze e scarpe. Lei deve prima avere un rapporto, una relazione, stabilire un contatto, avere una storia. Poi magari può andarle bene, trova una donna che non ha nessun problema a mettersi scarpe e calze e quindi la fa contenta. Ma siccome questo la vedo un po' difficile e la vedo un po' impacciato, soprattutto agitato e frettoloso, lei finirà di andare a puttane dicendo: chiederò a questa signora che pago di mettersi scarpe e calze. Beh, si diverta, che devo dirle, non c'è via d'uscita. Invece che tremare, stare male e disperarsi, a questo punto almeno sarà un po' più sereno e riuscirà a far l'amore con sua moglie soddisfatto, anche se lei invece che le calze si mette i calzerotti o il pigiama di flanella.